Poi finalmente risponde: scusa, ero sotto la doccia. No, no, altro che Germania. Ora me lo vengo a prendere. 5 minuti e sono da te. In pratica in Germania sono andata 3 giorni a fare una gara di taekwondo. Adesso sto facendo la magistrale in scienze internazionali diplomatiche, ma in triennale sono laureata in lingue. Non so se ho fatto la cosa giusta. Praticamente ho invitato il lupo nella tana. Alessandro mi piace, ma ha 4 anni meno di me, non so cosa potrà venirne fuori. Cerco di concentrarmi sul presente e di godermi il momento. Indosso un paio di leggings e una polo larga, qualcosa di casual ma accuratamente studiato. Mi trucco cercando di non sembrare truccata. Poco dopo Alessandro arriva. Ancora non lo sappiamo, ma è l'inizio di una bellissima storia d'amore. Inizialmente c'è molto imbarazzo, ci conosciamo da poco ma c'è molta attrazione. Io preparo una camomilla, poi ci spostiamo nella mia stanza. La tensione cresce, parliamo di qualsiasi cosa. Facciamo assurde ricerche su internet, aspettando che si crei l'atmosfera giusta per il bacio. Siamo entrambi molto timidi e impacciati. Intanto si sono fatte le 4 di notte. La mia sveglia è puntata alle 6:30 per la partenza. Capisco che Alessandro non ha intenzione di andarsene. Per creare un diversivo propongo di vedere un film, un buon modo per avvicinarci. Uno studentato è un luogo in cui vivono solo studenti e dove la vita sociale è abbastanza diversa da quella che ci può essere fuori, perché si tende a stare sempre insieme, sono molti luoghi di aggregazione dove si sta tutti insieme, quindi diciamo che conoscere una persona è un processo un po' più accelerato rispetto a quello che potrebbe essere fuori. Ci sediamo sul letto, metto uno dei pochi film in italiano che ho sul PC, assolutamente non adatto a un'occasione romantica. Appoggio la testa sulla sua spalla, lui mi abbraccia e inizia ad accarezzarmi i capelli. Nessuno dei due guarda il film, siamo troppo presi l'uno dall'altra. Lentamente prendo sonno e lui spegne il computer. Sono accoccolata su di lui, rimaniamo in questa situazione per un tempo che per me è indefinito. So solo che vorrei durasse per sempre. All'improvviso suona la sveglia. È già ora di separarsi. Alessandro la spegne, si avvicina a me e mi bacia. Finalmente. È un bacio bellissimo, intenso, dolce e appassionato allo stesso tempo. Poi salto giù dal letto, mi preparo e usciamo. Alessandro mi accompagna alla porta e mi guarda andare via. Tra qualche giorno sarò di nuovo da lui e la storia la stiamo continuando a scrivere giorno per giorno. Sul pullman in direzione per la Germania continuo a rigirarmi l'accendino tra le mani, pensando alla notte appena trascorsa. Guardo quel bic e spero che non sia l'unica cosa sua che mi sono portata via. Questa puntata, lo dicevo prima, è un po' dedicata a tutti gli uomini. Non ovviamente che le donne non possano ascoltarla, anzi. Però per una volta vorrei che fossero proprio gli uomini a sentirla. È dedicata a loro, perché io già me li vedo. Dopo che hanno sentito la storia di Martina, me li vedo sbuffare nel chiuso delle loro macchine. Me li vedo che pensano, però che palle sta storia. E la mia parte cinica mi spinge anche a essere un po' d'accordo con loro. Cioè, storie come questa possono apparire come storie banali all'inizio, no? Banali perché sono successe a tutti. Però io chiedo proprio a quel maschio che magari sta tornando da un appuntamento, a quell'uomo che abita fuori casa per 4 giorni la settimana e passa più tempo in macchina da solo che altrove ed è abituato a sentire questa voce qua, la mia, che gli parla tutti i giorni, ecco, gli chiedo di smettere per un momento la divisa del maschio e ritornare con la mente a quel momento appena prima del primo bacio. Anche al più duro di voi, sono sicuro che scappa mezzo sorriso. Tanto alla fine sei in macchina da solo, non hai nemmeno bisogno di nasconderti agli occhi di qualcuno, quindi fallo, lasciati andare. Perché questa storia qui, la storia di Martina e di Alessandro, ci ricorda quel momento lì. Quel momento che dovremmo ricordarci ogni volta che baciamo nostra moglie, la nostra compagna, la nostra fidanzata, e viceversa ovviamente. Ricordarci perché siamo qui, ancora assieme, magari dopo tanti anni. Il momento di quel primo bacio non è uguale per nessuno, ovviamente. Non parlo del primo bacio in assoluto, Quello che si dà più o meno a 12 o 13 anni, boh, credo, adesso non lo so più. Quello è quasi uguale per tutti, no? È un passaggio obbligato dei teenager. Ma il primo bacio con la donna di cui si è innamorati, o di cui ci stiamo innamorando, quella con cui divideremo la nostra vita, per tutti, come per Martina, è un momento importante. Sì, anche per noi maschi cinici al volante. Io ho classificato, perché mi piace farlo, è una specie di malattia, questi primi baci in 5 tipologie diverse. La prima è la tipologia del cavaliere. Il mio archetipo per questa tipologia è il mio amico Christian Perrone. La storia è questa: Christian è in vacanza in Grecia, sta cenando con Davide Pirro e Roberto Palermo, gli altri due amici. Mentre ride e scherza, come si fa in vacanza con gli amici, la vede. Anche lei sta cenando con delle amiche. Dopo averle mandato dei messaggi molto educati attraverso il cameriere, va a casa, si veste bene, torna e senza nessuna vergogna si inginocchia di fianco a lei e davanti al tutto il ristorante le chiede di poterla accompagnare a casa. Lei, di fronte a tanta ostentazione, non sa dire di no, ovviamente. E ora sono marito e moglie e hanno due figli. La seconda categoria, invece, è quella di Gastone, il cugino di Paperino, a cui va sempre tutto bene. Il mio Gastone, chiamiamolo così, il mio Gastone di riferimento, sa che proprio quella sera ci sarà una festa da una sua amante a casa. Per la verità non si aspetta niente, anzi nemmeno vorrebbe uscire. Alla fine però decide di andarci. Proprio a quella festa lì conosce la sorella dell'amante. Non gli dispiace, ci prova. Ci prova più per quel piacere torbido di avere una storia con entrambe le sorelle. La porta in terrazzo e la bacia dietro a un cespuglio di rosmarino. Flirtano sul terrazzo fino al mattino. Il rosmarino è un portafortuna per i gitani e lo è anche per questo Gastone, che da 12 anni sta con lei e anche loro hanno dei figli. La terza categoria è quella del galante. Il galante corteggia per mesi, fa dei regali, si presenta sempre con i fiori, la porta fuori a cena, ma non conclude, perché non sarebbe galante. La quarta tipologia è l'amico, vabbè, questa la conosciamo tutti. Di solito chi appartiene a questa categoria è l'insicuro che passa ore e ore con lei senza nemmeno pensarci a certe cose. E poi l'ultima tipologia è quella del procrastinatore. Il procrastinatore non è timido, sa quello che vuole, sa come fare, è padrone della situazione. Ma quando l'atmosfera è diventata quella giusta, rilancia sempre un po' per aumentare la suspense. Ho saputo di recente che a Chicago, lo scorso anno, è stata posta una targa scolpita nella pietra ed è stata posta nel luogo esatto in cui Michelle e Barack Obama si scambiarono il loro primo bacio. Barack e Michelle lavoravano insieme in uno studio legale e il futuro presidente degli Stati Uniti, uno dei più grandi comunicatori di questi tempi probabilmente, non trovò di meglio per invitarla fuori se non donarle, omaggiarle in pausa pranzo, il miglior gelato del centro commerciale. E dopo averla baciata, le disse: sai di cioccolato. And I remember you at the window, saying my name out loud. I was trying not to let it show, but I felt so goddamn proud. You said when you're gone I will think about you dearly, and I will try my best to be alright. It was late October and the night it was early, but you were all I needed for a light. All I needed for a light. Voi siete qui. Se andate sulla nostra pagina, sul sito di Radio 24, trovate la foto di oggi, in cui ci sono, proprio di fianco alle etichette Ascolta e Condividi, ci sono le facce di Martina e di Alessandro, ovviamente. È il tipico autoscatto in cui lei abbraccia lui e lui tiene la macchina fotografica. Lui è sugli occhiali da sole, lei no. Sono sorridenti, c'è davvero poco da dire, sono felici. C'è un prato alle loro spalle e in fondo delle montagne innevate. Bacio. Sostantivo maschile. Atto di passione, affetto o venerazione dato dall'accostamento e dall'eventuale pressione e schiudersi delle labbra. In pasticceria, denominazione di piccoli dolci anche molto diversi tra loro, ma accomunati dall'essere di dimensioni molto ridotte. Etimo, latino, basium. Dice il poeta: un bacio, e che? E mamma mia, e che? Davvero, davvero? Non lo so. E poi non lo so fare. Eh? non lo sa fare, va bene? E vabbè, lo so fare io per tutte e due. Diana, davvero, ho imparato, Fiatella mi ha insegnato. È stato tre pomeriggi pari. Siamo stati sotto al muretto, lui mi ha insegnato come si bacia. Allora, è facilissimo. Chiudi gli occhi, rilassati, chiudi gli occhi, guarda me, e appoggiati, ecco, rilassati, non pensare a nulla. Guarda me, chiudi gli occhi, guarda me, mettiti così. Chiudi gli occhi, guarda me, mettiti così. Apri gli occhi prima, guarda me e poi... Si chiama Il primo bacio, questo pezzo di Enrico Brignano, che è una specie di pezzo monologo di 6-7 minuti che è molto molto divertente. Si parla del primo bacio, se non l'avete capito, e devo dire che abbiamo recuperato anche l'ascoltatore Pianeta Volley su Twitter, che dice: sono sempre qui, meno male la pubblicità. Quindi vuol dire che ci sei, vuol dire che sei lì. Ci sono i romantici come Davide, che dice su Twitter: dopo 25 anni il mio primo bacio a mia moglie lo ricordo bene, perché era identico a quello di ieri sera. Davide da Padova. Insomma, è un po' arriscato in realtà dei virili uomini al volante che scrivono la salita della quercia al Gianicolo a Roma. Vedi, questa però è proprio fortuna, cioè, perché se tu vivi a Roma, dov'è che la porti alla prima bacio? Cioè, a Romentino la porti dietro le scuole elementari, a Milano la porti al quartiere olandese, o invece a Roma al Gianicolo, la salita della quercia. Non ricordo la data, ma ricordo che era notte abbastanza tarda perché Roma fosse così silenziosa da poter sentire il vento e il Tevere in sottofondo. Era l'inizio dell'autunno, piacevolmente fresco. A 16 anni, non hai firmato, a 16 anni, nel 65, con la futura e attuale moglie, fantastico, davanti ad una chiesa sconsacrata. Luigi, ci ricordiamo tutto. Luigi, 65, quindi sono 38 anni fa, no, di più, 48 anni fa, quasi 50 anni fa. 349-238-6666. Tempo fa, noi abbiamo chiesto, esattamente una settimana fa, più o meno quando facciamo la riunione per capire che cosa accadrà la settimana dopo, quindi una settimana fa, un bel giorno, noi abbiamo cominciato a chiedere su tutti i nostri profili, quelli in cui dialoghiamo con le persone che ci ascoltano. L'avevamo già fatto, non troviamo un testo, non troviamo una cosa, per caso voi sapete dove possiamo trovarlo, ce la trovate voi? E pronti via, un sacco di gente ci aiuta, e tra l'altro approfitto oggi per ringraziare tutti quelli che su Facebook, su Twitter ci danno indicazioni su come trovare un testo, un film o un brano musicale, un po' di meno, più che altro roba testuale o filmica. Una settimana fa apparve un annuncio che suonava strano probabilmente agli ascoltatori di questo programma e ai follower su Twitter e Facebook, che era: stiamo cercando un brano in cui si racconti il primo bacio tra una coppia di un libro di Federico Moccia. Questa di fatto era una richiesta molto laica. Cerchiamo un libro che parli di teenager, che di solito è destinato ai teenager, del maggiore, direi, scrittore di categoria italiano, che è appunto Federico Moccia. Alcuni scrissero: speriamo di no, io non lo trovo, non ce l'ho, robe così. Insomma, noi non ce l'avevamo in biblioteca e quindi lo chiedevamo. Sono arrivate moltissimi e vi ringraziamo, li abbiamo archiviati tutti, ma soprattutto a un certo punto è arrivato a voi siete qui, @radio24.it, ad una mail che non sto a Federico Moccia, qualcosa del genere, Federico Moccia stesso, che ci ha scritto: so che cercavate un mio testo in cui si parla di un primo bacio, eccolo qui. E allora noi oggi, visto che si parlava di primo bacio, abbiamo voluto mettere insieme due cose, cioè abbiamo voluto leggere, non li leggo io, li facciamo leggere alle voci professionali di questa radio, professioniste, un pezzo di giovani, per giovani, di Federico Moccia, e un pezzo di meno giovani, per meno giovani, di Orhan Pamuk. Uno è Amore 14, no, non sappiamo uno che cosa, ce l'ha mandato Moccia direttamente ma non sappiamo cos'è. L'altro invece è Il Museo dell'Innocenza. Tancredi e Sofia si guardarono, si sorrisero, senza nessuna timidezza, senza nessun pensiero, come solo un uomo e una donna in alcuni momenti riescono a fare. Come se non esistesse nient'altro, come se quello che stava per accadere fosse la cosa più naturale del mondo. Un bacio. Un bacio dai diversi sapori. Da una parte cercato, sofferto, voluto, desiderato. Dall'altra combattuto, evitato e infine addirittura venduto. Così Sofia si abbandonò tra le sue braccia, lo strinse forte. Le sue labbra all'inizio risposero quasi pudiche, timorose, ma poi improvvisamente presero vita e divennero avide e alla fine stordite, sorprese da quella passione. E Tancredi continuò a baciarla, liberando il suo viso dai capelli, staccandosi a volte, guardandola negli occhi, cercando il suo sguardo che, timido, nascosto, tentava in tutti i modi di evitarlo. fino a quando non si incontrarono. E subito si persero di nuovo, come se Sofia fosse di fronte a una disperata, innegabile verità. Allora quasi lo sussurrò. 5 giorni. 5 giorni e non sarò più tua. E mentre i cardinali in diretta in questo momento entrano verso la Cappella Sestina per il conclave, noi abbiamo appena letto Federico Moccia e stiamo per leggervi Orhan Pamuk. La presi per mano e la portai in cucina con la scusa di preparare il tè. C'era odore di polvere, di umidità e una luce fioca. Tutto successe rapidamente. Non riuscimmo a trattenerci e iniziammo a baciarci. Continuammo a baciarci a lungo, con ancora più passione. Si era abbandonata a questo bacio così profondamente. Mi aveva gettato le braccia al collo e teneva gli occhi così chiusi che capii che avremmo fatto l'amore fino in fondo. Ma questo era impossibile, dal momento che lei era vergine. Eppure, mentre ci baciavamo, sentii che Fuson aveva preso la decisione più importante della sua vita ed era venuta per andare fino in fondo con me. Queste cose succedono solo nei film stranieri, pensai. In Turchia, invece, mi pareva strano che una ragazza, inaspettatamente, prendesse tale decisione. Forse non era più vergine. Senza smettere di baciarci, uscimmo dalla cucina, ci sedemmo sul bordo del letto, ci spogliammo in fretta e ci infilammo sotto la coperta. Era pesante e poi mi prudeva sulla pelle come quando ero piccolo. Dopo un po' me ne liberai e i nostri corpi mezzi nudi vennero alla luce. Eravamo entrambi grondanti di sudore, ma chissà perché questo ci rassicurò. Un raggio di sole arancione scivolava attraverso le tende chiuse e rendeva la sua pelle ancora più bronzea. Entrambi ci abbandonammo alla musica in crescendo di questo gioco fatto di desiderio e passione. Un gioco che, a mio parere, bisogna vivere in ogni storia d'amore degna di questo nome. But I would never kiss anyone. Barocca come una chiesa di Noto, Modica o Siracusa, finisce anche la puntata di oggi di Voi Siete Qui. Succede raramente effettivamente di leggere alcune cose e di mettere certi brani, però diciamo non ci tiriamo indietro, quando varchiamo la soglia ci entriamo completamente. L'ultimo messaggio di oggi è di Vincenzo e dice: di notte sulla spiaggia di Lignano Sabbia d'Oro nell'85, il primo bacio, io avevo 17 anni e lei 13, chi l'avrebbe mai detto. Grazie a Tiziano Bonini, a Paolino Corleoni, a Margherita Ina e a Franco Piantanida, che ieri oggi è stato con noi. Adesso lo perdiamo, giusto Franco? Basta, se ne sta già uscendo senza nemmeno... Perfetto, grazie Franco Piantanida, grazie soprattutto a Martina. La sera di oggi era la sua e anche lei è un punto rosso su una mappa.